Quindi, alla nostra obiezione, Signore, tu fai finta di non sapere nulla di me, eppure sai quanto è triste il mio rovescio. A questa obiezione il Maestro risponde mostrandovi le sue piaghe. Per quanto tu sia terra, per quanto tu sia un tizzone d'inferno, mi sei costato sangue e tuttora mi costi sangue. Su, sollevati, per la forza di questo sangue che io ho sparso per te, sollevati da questa melma, esci da questa carcere, fuggi via dal peccato, lascia certe abitudini, innalzati. Signore, ma io sono... Alzati e cammina! Signore, dice quel paralitico, sono 38 anni che io non mi muovo con le mie gambe. 38 anni! Alzati! Prendi il materasso in spalla e va! E il paralitico della piscina probatica si alza e cammina. Lui, paralizzato da 38 anni, alzati e cammina, dice il Signore. E fin dove devo camminare, Signore? Fino all'argine dell'Adige? Devo camminare fin sul pastello? Cammina fino alla santità di Dio, sii perfetto come l'Eterno Padre. Signore, l'hai detta a me questa parola? Sì, a ciascuno di voi, tramite la mia gola e la mia voce, il mio fiato. A ciascuno di voi, in prima persona, papà, nonno, figlio di famiglia, fratello, chiunque tu sia, in nome suo, alzati e cammina. Ma io, quante volte sono zoppicato, alzati e cammina. Così ha detto quella notte ad Alferio. Così ha detto quella sera a Mat Talbo. Così a ciascuno di noi. Oggi, in questo solenne momento della vostra vita, a me, a voi, alzati e cammina. Cammina. Signore, ho strisciato. Sì, fin troppo hai strisciato come il serpente antico Lucifero. Ma d'ora in poi non devi più strisciare come una serpe, ma devi camminare come un risanato, come un risuscitato, e volare per recuperare il tempo perduto e rimediare agli scandali dati. Si incomincia girando pagina, pagina da non riguardare più, e incominciamo una nuova pagina in bellezza, in grazia, in santità.